Ascolti, la mia antenna avviso era sul palchetto. No, perché tu rimani dietro, sto parlando dai punti, eh. Ah, no, così no. No, perché da casa mia si vede proprio giro a giro a Bururu Bacone, cosa giù. Già lo so, è vero quando passo. Va bene, avanti Dani. Perché Dani questa male va alla radio? 9.30, dai, già va bene lo stesso, dai, già esci bene. Sì, alla grande, avanti di radio va bene questa. Avanti Luca Flipper. Però che sei un bel più asso, sì. Con questa? No, di segnale sei più alto di loro, qua arrivi 9.40. Ma la grande va. Anche questo già va bene, questo è 294 con l'MB più 4. Già va bene, l'altro è un po' più potente, questo già è quello piccolino, mi capito? Già fa, no, già va bene già. Bene, ti sto arrivando io a te. 9 più 30. Andava bene. Via, tra poco mi arrivano le pizze, via. Stanotte ti mangiamo whisky, sono un po' stanco, la verità. Abbiamo fatto molta strada a piedi oggi. Stanotte è guerra, tu. E che guerra? Oggi è San Valentino. Non ti tocca il salto del leone, mi Antu. Ma io che ti farà tutto. Ma io so, quello che non mi vado io. Ehi, va già tutto, ya. Pare così, ma... Sta rimanendo la paglia, ne ho per un buco, un buchettino per la burra cara, e oggi, da giù posto un bullone. Ma non è che gli fai due cantoni sotto al vetro? Assolutamente, no, niente buco in occhi. Mi Massimiliano già l'ha visto. Era un coso, all'altezza della presa c'è un buco. Io guardando, ma che mi vai la cara? No, ha detto che è un bullone. E c'è anche un coso. vabbè, gappa. Comunque dai, già va bene. L'importante è scegliere da solo per i fatti tuoi, altro già va bene. Avanti Flippe, la gente scende la bulloneria. Ah, Dani, Luca è andato a cercare i bulloni. No, riprendi, è andato a cercare. I vetri, ma vetri di porta. Quei vetri retinati, non so se te li ricordi, che sono fuori norma adesso. Già me li ricordo. Beh, già non sono piccoli quelli, a qualche parte li avrà appoggiati, no? Oh, io mi sono fidato di lui. Ah, vaga, se non mi fido più di nessuno. Secondo me ce l'ha fatto il mio. Ah, secondo me ce l'avrà fatto qualche invenzione, non sapeva cosa fare e ce li ha buttati alla fine. Ah, ma magari gli ha messi dietro qualche pannello, qualche cosa. Va un casino che sia soffitta, non veniva a dirlo. Ah, infatti sicuramente li ha nascosti, non è che li ha nascosti, li avrà messi dietro qualche scatola, magari non li vede, che sono dietro quella scatola, però non lo so. Neanche io lo so, cosa vuoi che ti dica? Tu pensi in deposito da me, se tu mi chiedi una cosa, io vado, mica in mano lo deposito di Marcito, e tu andi incasinato, io vado e te la prendo. Perché so ormai già dove mettere le mani e come è fatto tutto quanto. Però se io metto una cosa da una parte, più o meno la ritrovo. Invece Luca non ha gatto nemmeno visto. Dai. Dimmi. Ma tu la Marcello perché lavori? Sì. Ma non è che ci avete qualche multipla lo? Multipla anno? E buono, lo so che seconda serie, va, diciamo così. Dai, sono arrivate le pizze, ci sentiamo dopo. Via, ciao a tutti. Via. Quindi tu non hai quella che ha gli abbaglianti sopra i montanti, tra il cofano e i montanti, tu c'hai quelli che con i fari normali, giusto? Sì, io prima avevo quella lì, la serie quella con i fari tondi, là, diciamo, i fari quelli in vetro piccolini e poi gli abbaglianti in alto, adesso c'ho l'altra serie. Sì, già ne abbiamo una di quelle. Che cosa ti occorre? Se ci sono gli interni buoni. Gli interni? Quello lì te lo posso far sapere domani. Va bene. Ascolta, va bene, che a noi guarda là, che a me te non lo sai. se non sbaglio quella macchina è del 2010. E quindi c'ha tutti gli interni buoni anche a me. Quello non te lo so dire, perché non l'ho bonificata io. Ok, va. Vabbè. Se in caso magari, non lo so, ti passo il numero Claudio, o magari ti dai il mio numero, mi puoi fare uno squillo anche se vuoi. Mi mandi un messaggio a WhatsApp. Ok, dai, mi faccio girare il numero WhatsApp, così qua in radio non diciamo nessun numero di telefono. Ti faccio passare il numero da Claudio e ti faccio uno squillo io. Ok, va, fai così, e così tu magari domani quando inizi al lavoro mi fai sapere tutto, va. Ok, perfetto, va. Tra, se c'è il numero me lo passi. Hai sbagliato il microfono. Ci conferma, già te lo passo io il numero, Adesso io vi lascio 10 minuti e scendo a portare il cane, Massimiliano. Che mi copro bene. Guanti, berretto, babballina e scia. Questo è un freddo allucinante. Ma 10 minuti e sto risalendo, intanto le faccio fare la pipì qua sotto e sto risalendo. Ok, poi ti passo il numero, Dani. Ok, da. Copriti bene, che ci sono 3 gradi. Che è un mezzo organizzato, sì. Senti, mi sono i pinguini, ma lei non tocca tucca. Ce ne due. Vigio i pinguini balendro duca tucca. E qua nel termometro che c'è fuori nella finestra ci sono 2 gradi lo stesso. E qua lo stesso sta scendendo un bella temperatura. Tu pensi alle 5 erano 9, 6 gradi, poi tutto di botto sono scesi 3 gradi. Non lo so, io forse abito un pochino più giù di te, figurati, è ancora più in basso. No, ma già l'ha detto che scendevano le temperature, vero? Chissà cosa avevo da mangiare la Uschi, mamma mia. Magari troverai un pochino di ghiaccio. Sono più sicura, già. E lì è zona sempre di nebbia, mamma mia. È una cosa impressionante. Ah, ma già la strada già l'hanno fatta bella, da. Vabbè, sono rimuovermi voi, per forza c'è bella. Ah, voi la state facendo? Io, la mia azienda, là, quasi tutta noi ce l'abbiamo. C'è andata bene, almeno fate qualcosa di buono per la città, anzi per il paese. Guarda, dopo ti dico una cosa, che quando sarà tutta finita, un gioco da ragazza arriva da Olbia. Una proprietà bella, rettilinea, 4 corsie, bella. Poi vabbè, adesso c'è qualche tratto che sta iniziando a cedere, capito, perché ci sono materiali che non servono, ma... Diciamo da mesi di osso in poi hanno certificato tutto, quindi comunque già esce bella, esce una bella strada quella. No, già lo so, io la faccio maggior parte dell'anno d'estate, che vado sempre lì a Golfo Aranci, quindi quella strada la faccio sempre. Ma tu non vai, no? Il camper. No, perché noi stavamo collaborando quando un 2 anni fa con voi. Venivate a prendere dei pali di ferro che toglievamo dai sottopassaggi, va? No, li stiamo ancora raccogliendo i materiali ferrosi da voi, dalla strada, no, lì in Sassa di Olbia. E qualche camion ogni tanto già lo portano ancora, qualche cassone, no? Vabbè, adesso ne sono rimasti pochi, perché prima c'erano quei lamieroni grandi, quelli tingati, quei sottopassaggi, quei pali lunghi da 6 metri, che toglievano dal salvatore, capito, come avevano fatti. Di quei tubi zincati, ondulati, già ne ho tagliato un po' a cannello, da. Io tagliavo il tanto di entrare dentro la pressa e poi la pressa faceva tutto il resto. Ah, ecco. Allora io un po' di anni fa ho lavorato proprio di fronte a voi, quel capannone, cosa c'è, l'avevo non mi barano fatto io, come lo stavo, l'ho fatto io. E infatti i miei giunti, qualche uno era lì dentro. Ah, quel capannone che c'è lì davanti a noi. Ah, voi l'avete fatto lo scavo? Sì, lo scavo l'ho fatto io. Lo scavo di quel capannone l'ho fatto io. Quanto siete scesi, no? 5 metri, 4 metri? 4,55 metri, una cosa del genere, sono sceso. Solo che prima hanno sbagliato, capito, l'hanno tracciato male, dove scendi dentro la strada. L'ingegnere ha sbagliato il progetto, poi l'abbiamo traddrizzato. E c'erano dei mezzi vuoti, parcheggiati, fermi dentro, li abbiamo trainati perché non camminavano, capito? Li abbiamo trasportati da una parte, i cassoni, tutta questa roba qua. Con la pala cingolata riesce a fare più manovre. Poi quando è in terra, a terra proprio, terrazzo, riesce a lavorare anche meglio. Con il camion si entra appena appena, si infanga, si impantaneggia. Bravo gioco, bravo gioco. La voglia. Più di uno ne ho tirato. Di quelli vecchi, quello bianco, che c'ha tutto lo spoiler sotto con le pareti. Un giorno si è impasimato dentro un vano. Per carità, guarda. Quando tirano la dieta, io ne stavo tirando tutto, anche il palancato me ne stavo venendo appresso. Quello lì è l'Australis. L'Australis, quello bianco. Quello lì sì. Che non sono adatti per fare quel movimento lì sulla terra. E poi se un giorno ci hanno mandato a raccogliere tre pezzi di ultraliccio di quelli dei ripetitori giù ad Ardara. Ci abbiamo fatto quell'articolato, un pezzettino di fuoristrada, siamo riusciti a salire così, per fortuna. Fermi eravamo, le ruote è pattinato. Siamo riusciti a salire per fortuna e meno male, siamo riusciti anche a fare manovra su. Ma no, vabbè, gli stradali non servono a niente, ne balzando, no. Si chiamano tutti stradali perché devono stare sulla strada. Se non che se in una strada asciutta, ferrata, però deve essere asciutta. Se trova per appena il fango non si viene a libera, si chiama. Visto che andando ad Ardara, quei quattro pali che c'erano, adesso ce ne sono tre, sono i ripetitori. Uno di quei pali lì abbiamo recuperato, che l'azienda l'ha lasciata a noi a recupero. Ho capito, dove, sì. Ma lì è tutto un casino con la trava bianca. Un casino, cazzo, un casino. Per fortuna che siamo riusciti a uscirne, se no saremmo rimasti ancora lì che mandare il trattore. Vai avanti, non è visto. Magari che ha chiamato. Non lo so, mi sembra aver capito, attento, lima uno, mi sembra. Sì, ha detto così. Avanti. Vabbè, comunque, sono entrato, io sono qua. Luca, Flipper, ci sei? Mamma mia, ma sono subito in mezzo, abbiamo sicuro, abbiamo il parica. Avanti, Antonio, già mangiata, dove la bica? Via, già mangiata. Che? Te ne siete in buccio, in buccio? Cosa vi può mangiare la pizza? Voi buon nucleo. Via, da voi che va giù fame. Per carità, se ti racconto una cosa, come si fa a lavorare in queste condizioni, cazzo? Ora te l'ho portato, la pizza col pelo. Ma che pizza col pelo? Siamo andati a mangiare. È un ristorante in Kiwi. Praticamente. Ma ha cominciato a bucarne antipaste. Dopo mi ha buttato il gigione, mi ha buttato. Cioè, fammi una bella porzione. Cioè, ha portato una porzione di ragliata, Puccio, ma roba da macchie, cioè. Però glielo ho detto, non da te cucino. Vabbè, Antonio, lo sai che cos'è? Che prima cercano sempre di riempirti antipasti e poi ti danno quello da mangiare. Chi era sopra Antonio? Chi vuole entrare? Avanti. Era un segnale di 9.40, 9.50. Ma cosa cazzo è? Sicuramente qualcuno che ci vuole giocare, no? No, nel canale a fianco, Ma io mi due avanti, mi è andato nel canale 11 a fare prove. Cazzo, tutti i canali di gioco. Vabbè, non è che mi disturba più di tanto, ma comunque. Quello che dà fastidio è il fruscio che dà. Ma infatti, però, io dico, no, con 40 canali che ha, cazzo, nell'11 se ne va a fare prove, vabbè, comunque, lasciamo andare a fare, va. Avanti, Bambolì. Già, non ce n'è abbizzato, non ce n'è. Adesso già a posto. Martina. Ma non c'è andato? Sì, c'è, ma tu sei al canale 11, facendo il cagosto. Ma siccome ho visto che mi ho detto forse non sto uscendo. Per carità. Sta uscendo, ma c'è uscendo con un fruscio. Fastidioso. Cos'è Massimiliano? Aspetta, mi... C'hai un fischio dietro. C'è un innesco dietro, tipo ti ha preso, capito? Ancora? Sì, sì. Sta abbassando il macchinino? Niente, sempre. No, ce l'hai sempre. Per carità, buh. Ma su, aspetta. Ma cosa stai usando? Senza. Veramente dicevo sul posto di. Bah, del Giovanni, tu. Che ci vuole col fischio senza. Piedi. Piedi, piedi, col fischio senza. Avanti, bambolo. Ehi, capo, vabbè, non lo fa forza, dai, può succedere. Magari lui non pensava di sbattere il canale, capito? Oh, io che mi pongo un pigiama, va. Unos e duos. Aiuto. Sì, tanto tu già la mortante, mi ha bugato un pigiama. Come te, uno e due? Uno l'ha bugato, pure. No, non è che si stava sbattendo il canale, io sentivo un rumore, quel rumore che si portava dietro, capito? Non è che mi stava sbattendo. Sì, no, uno e due che mangio un bosco di pigiama, che ho preso. O uno o due, chissà cosa, no? Lui, eh? Avanti, dai. Ah, io, Luca, vai, riprova. Non lo faccio a famiglia con voi, eh. Beh, oh, ci sentiamo dopo, ciao. Ma no, allora, ecco. Io devo prendere i prove sicuramente. Cosa? Che sta facendo le prove. Vabbè, la sua buva. Vabbè. Vabbè, com'è andata la giornata? Oh, siamo male. Non vedi l'ora di cuccarmi? Oggi ho fatto un po' di cammino a piedi oggi. Oggi ti voglio riscaldare perché c'era un po' di freschetto. E come è andata la giornata? Tanto normale. Niente di particolare, stamattina caffettino al bar, rientrato a casa. Fatto un girettino stamattina, così al volo, c'era poca gente in giro. E niente, va. Io adesso mi faccio la barbaduccia, fare la magna, la bombe il gocco, 5 meno un quarto sono alla sveglia e te lo andiamo a travagliare. Io purtroppo. Purtroppo non sono potuto venire perché avevo un impegno, avevo e quindi non potevo venire. Beh ragazzi, adesso chiuso, là che devo andare a mangiare. Ci sentiamo un altro momento. Massimiliano, dopo quando mi dà il numero Claudio ci sentiamo, ti mando un messaggio. Ok, grazie Dani, così magari boh, se riesci mi mandi anche qualche foto, se riesci, senza una cosa impegnativa, no? Capito? Se ce la fai è giusto per, capito? Ok, dai, domani mattina faccio le foto e ti faccio sapere. Poi decidi tu cosa devi fare. Adesso già ti mando il numero di telefono, Dani. Sì, Dani, va bene. Ok, io se glielo giri qua mi fa la gentilezza. E così magari adesso dopo che mi manda così qualche foto, se mi ha notato, gli dico che cosa mi serve, così mi fa sapere anche il caffaiuri, capito? Tranquillo, dice Manuola. Danilo, quando commette fa, non ti preoccupare. Adesso te lo mando, dai, che me lo segno in un pezzo di carta e poi te lo giro su WhatsApp, ok? Ok, dai, ma esiste anche il copia e incolla, Micra, non ti preoccupare. Ok, dai, faccio chiudo, dai, ci sentiamo un altro momento. Ciao a tutti. Ciao Dani, ci sentiamo. Ciao Dani, dai, aspetta un attimino che te lo mando. Riprendi Massimiliano. Ehi, a qua, insomma, questo è cosa. Vai, tranquillo. Ah, sì, anche ok. Io vi segno il numero, aspetta. Ok. Ehi, sono qua di nuovo, vai. Noi stiamo cercando un sedile di Fiat Strada, raga. Anche se è imbarrato, visto che è. Non riusciamo a trovarlo, va bene anche quello della Palio, va bene. Sì, potrebbe andare bene anche quello dell'Idea, della Bravo. Non lo so, ma noi ci hanno detto che si assomiglia a quello della Palio molto. La Palio invece non hanno, ma la ciappa le dite che si macchi. Non so, bisogna adattarne uno. Secondo me va bene anche quella della Fiat Bravo, secondo me, della Brava. Ah, il problema è che quelle macchine sono costruite in Brasile ed è un casino a ciappa chi si dile. Però non lo so, già si può adattare, dai. E tutto si può fare, tu. lo lavate e via, avete lì già se quattro botte di ferro ci arrivate, e andate a testa. Pure noi ce l'abbiamo, ma l'hai vista quella a TIG? Quella lì è una figata, Ma adesso io questa che c'ho, insomma, la vendo e mi prendo quella inverter, capito? Questo sono di quelle un po' di quelle vecchiotte che è a due ventole, capito? È un po' pesante, di quelle pesanti. Ormai quelle inverter sono più belle, piccoline, saldano bene. Ma anche noi ce l'abbiamo così. Ma adesso ci sono anche quelle a filo continuo, Anto, a filo continuo senza ossigeno, quelle saldano bene lo stesso. Quello a filo continuo un po' diverso, ma vediamo un po' se riprende Claudio. Claudio, ci sei? Sì, sta scrivendo troppo il numero, KK, te l'ho già mandato. Senti, l'hai vista quella saldatrice a TIG? Sì, bella. Quella proprio fonde, quello lì unisce il metallo, fonde, non si ci ha capito un visto. Ah, così è? Come che lo fa la fabbrica? Tutto qua, parruia, mamma mia, gara, gara. Quasi con radio gioco, no, quasi con paggio duro, ma... Non so, vado a farmi la barba da luce, quasi, no, macello. Ma cari dai! Mi dà un po' lo fiato di fa, va là, tu. No, non lo sentite, Ilaria si sta asciugando i capelli, Non so voi con l'elicottero. Ma tranquillo, già si sente quando è l'elicottero. Ma io sai cosa ci ho combinato un po' d'anni fa? Asciuga i capelli. Ma sto parlando di qualche anno fa. Sta entrando uno di chi si... L'ha giù bloccato la ventola. Uno di chi si ferma a ciuffi di mia nonna. È andata a punire... E a tenere un coso c'era l'umendero. Asciuga i capelli. Chi ce l'abbia fatto a nonno l'abbia fatto. Ma tu sei ancora il capo, sì. E andiamo solti di ringhia, buona con la terra. Ma il capo, mi viene giù combinato, mi dice tua zione. Senta, picciò, che mi sono alzato un attimino, sono andato a bere, cazzo. C'è un freddo fuori, raga. Madre di Dios. Non dirà a me che in Bisurugu verane dei cosi verane, per carità. I linguini verane, tu. Ma faccio andare a Puccio d'Orra. Perché vuole magnato? No, assolutamente, non mi ha detto fuori. Ma dovevo andare, ci sono dei parenti, dovevo andare lì, e poi dovevo andare altro, prima ho trovato un amico di famiglia, poi ero andato dai parenti di lì, e siamo andati in Chivi al ristorante. Ma non vedo andare più in Chivi. Ma che mi sei parlato con la bicicletta, tu? La sala di mia bunia. Sono parlato con un treno. E non sono portato a pacchi. Fai, ci la ruota in una mala, ci. Tu, non per sapere dove eri, ma dove eri a fare la tua zimpinetta? No, assolutamente. Ero lì, avevo mangiato lì, in chi su bar che vai, in chi vi... Un trasporto, come ti mara sotto di giamma, mi chiama la piazza del comune. Al bar sport, sì, da Sergio, ho capito. Da Sergio e da Mauro, sono amici miei, sono coetanei miei quelli. Mi sono venuto in Chivi, mamma abita dietro, lì all'angolo abita. Sì, però non sono stato contento qua. Oh, fottito danni. Allora, come sta da Bugani antipasto, come sta da Bugani? Vabbè. Ma voi Marrega Rugoso, Marrega la minestra, c'era il Gigione, cosa mi a poco di Gigione, e chi vi un po' careddo, ha detto, ma cosa mi dende, Romagna di Raiata mi dende, cioè, mi ha dato fastidio, ho preso un po' di su, cioè sono comparato io, mi ha fatto bagare un poco, cioè no, non è che ero soddisfatto, cioè proprio a mamme. No, vera, qua lo sai che noi abbiamo la referente, avete l'aria, che si chiama? Allora, si chiama Nouvelle Cuisine, per quello che ho studiato io, ed è per evitare gli sprechi, danno le monoporzioni, le piccole porzioni, però te le fanno pagare un botto di soldi. Capito, Anto? Praticamente te l'hanno non mangi niente. Praticamente oggi te l'hanno appoggiata al culo. Sì, quando mi ha regato lo magna di raiata di rugane mi ha regato, non lo magna che mi devo via regare, cioè mi ha roba la macchina, infatti mi ho finto, è venuto qui una cinciullaia, Edo, tagliamo i viveri, gli ho anche detto giù, Dai Massimino. Ma tu ti volevi portare anche due pacchi di cracker in tasca, già, non sa mai. Ma quando mai, ma dai, cioè ma dai. Cazzo, ti dico che sta giubagando, dai, ma non va bene. Io paghi sa cifra, andati a 100 contatti mi danno i dito burro in chive. Ma pure detto. Io paghi sa cifra, quando da 140 grammi ne sciuga, non sa bene, anna esce. Ma a me un po' meno spendo, mi date il burro un riccio. Macchi di catena, cazzo. E vabbè, però, tu sei andato in un ristorante in il giorno di San Valentino, cioè... Sì, ma io non ho mai... Tra da voi viaggio burudito, vedate, a me buone minestre, a me. E voi, niente ragione, raga, bici, lasciamo perdere, va. Cioè, a giorno da dito, a me, fammi la porzione. No, dito, vedate. Ma che cazzo non è che ti cuda a barre tutti i santi basti? E mi arrega un mezzo piatto di bata asciutta. Dopo è tratta la bomba via così. No, andava bene, no. Cos'è, Anto? Ha tratta a me quelli che si incursi. Come ti chiama? Black e Cicci, come è questa cosa? Chi sono già come ti chiama? Chi sono ti chiama? Black e mi ha dato un guru ti chiama. Si chiama Ristoro Gourmier, capito? Praticamente sono mini assaggi, ha detto l'aria, mini porzioni, però se tu me lo dicevi che andavi a Porto Torres, io ti mandavo in un bel posto dove mangiavi alla grande, c'era di tutto e pagavi anche meno, perché quel bar è anche caro, capito? È un bel caro, va bene, dai. Comunque, vuol dire, la prossima volta passi dritto, KK, eia, Massi, eia, e così è, funziona così adesso, buono, va bene. Perché non te ne sei andato da cosa, Anto, da Cilia? Perché era pieno, ma la prossima volta non mai più là, non c'era posto per noi, capito? Questa volta branteggio dal Ghizzo, branteggio andando in Chivi, o ando da Catabasse, o ando a San Gavino, o a altra parte. Ma se non me lo consiglia Claudio, non vado più da Ghizzo, Muscimiao. Una volta ti arreggiavi due manine, o tu? Andavi da Bruno lì, nella piazzetta vicino al Bar Cristallo, mangiavi meglio e spendevi di meno, tu? Mi era detto da lì, non ne sabbia, non è che... Io sono fatto uno stupido, no, veramente. Invece ti ho fatto bene, ti fiamo la mano, e non va a dire mai sciuccati la sua cosa, va con la mano. Vabbè, no, lì già ce ne sono tanti, però oggi c'è l'imbarazzo della scelta, C'è la tana che si mangia bene, proprio alla fine di via Cavour per andare al campo sportivo, lì c'è una bella pizzeria ristorante, piccolina. La gestione familiare si mangia anche bene, però se andavi da Bruno spendevi di meno e mangiavi meglio di mangiare lì, capito? Secondo me gli hanno fatto pagare 70 euro in due, minimo. No, ma andare da Bruno un po' caretto, 70 euro ma 20 euro in meno, sì, cioè, sono altri quantità di euro, ma io non è, avrei potuto pagare anche 60. Portami la pasta, cazzo, ti cudo rubiata a capo, eccolo qua il mio problema. Ascolta, ma dopo la pasta hai preso altro però, un secondo, l'hai preso, un contorno, cosa hai preso? Nulla, niente, tani come niente, non ci va a capellizzare. Hanno cominciato, un chi ci antipatti, antipiatti, poi magna, il sabbono, magna, ma tutto bene, magna, ma voi mi ha regalato, ma voi mi ha regalato la giappola di lagliata, ma non ti mandi. Perché pensava che eri già al meccio, dai, con gli antipatti, allora che cosa? Quelli che allora. Ma sei contento che tu pensi che te ne diano un ristorante di 100 grammi, te ne danno un piatto, 100 grammi, cosa pensi te no, che è un burro di più, 70 grammi? Non dico, cioè, sono andato a 140 grammi, ma voi ne abbiate di maccheroni, altro che chi su buzzoni, Oh, claro, riprendo subito io, va, mi devo fare fa la barba, lo faccio acceso qua, va, ok, già sono qua in barba. Sì, va bene, già sono qua ancora, va. Anto, te ne stavi a Sassari, la portavi da, andavate a 140 grammi, mangiavi da Dio e spendevi molto meno, perché anche se prendevi il piatto per due da 140 grammi è tanto, capito? Sono molto abbondanti, poi magari ti facevi una bella passata di calamari fritti e patate fritte e spendevi di meno e mangiavi molto di più. Ma appunto, io dovevo andare per forza lì, è stata una promessa che io andavo a trovare questa zia, perché ci tenevo molto, mi ha telefonato, quando stavo mangiando mi ha anche telefonato, mi ha detto che è venuto il marito, ci ha preso, siamo stati bene, siamo stati bene, per quello che dovevo andare per forza lì, se no mi aveva bussato, come ti ha giocato la sala lì, abbiamo fatto preparare la sala, mi ha fatto i tramezzini e mi era accontentato. E arrivato a un certo punto mi sono fatto così. Lo so, magari mi stai dicendo che quello è caro, poi è un bar piccolo ristoro, capito? Ecco perché si fa pagare un bel. Vabbè, dai, la prossima volta vuol dire la porti da un'altra parte, dai. Adesso l'8 marzo la festa della donna e la porti da un'altra parte e anche vi diri dritto. Appunto, vabbè, non dobbiamo andare più lì. 8 marzo ha buttato 140 grammi. Ma sono qua da a Corte Santa Maria dove butto le bombole io. Ma una cosa qui si mangiava. A Corte Santa Maria lo so, si mangia bene a tu, non c'è un problema. Già va bene. No, 140 grammi qua, perlomeno questo c'è vicino a casa, fanno delle belle cose, la gente è un bel contento, tu capito? Per quello te lo sto dicendo. Però manco si mangia. E certo che mangi, lì mangi davvero. Vabbè, la mia contentezza è quella, amica. Se tu a me mi vuoi un piatto di gigioni, un piatto di qualsiasi altra pappa, però se tu me lo porti abbondante mi accontenti, io mi caglio mondo, non ti dico niente, ho pagato però non ti dico niente, ma se tu mi porti cose così e ho pagato mi pronto a mare in capo. Già lo sento, dà un po' fastidio, vai, dà un po' fastidio perché praticamente paghi e te ne vai con la fame, dà un po' fastidio, lo so, però ti ripeto, io conosco molto bene quel bar, anche perché sono tutti e due miei, cioè Sergio è mio coetaneo, quello grande, sono tutti e due con naso grande, e quindi li conosco molto bene. E ci fate di bagà, capito? È un bel bar, frequentatissimo, un bar sport, cioè sono tutte le partite di calcio, vanno, frequentatissimo, l'estate è sempre pieno, però è troppo caro. Già giù, cioè mi ha fatto pagare la ricetta, un caffè, e mi ha fatto pagare un bel bogume, un caffè, una pasta, un bicchiere d'acqua, non pare più di 3,50 euro erano. Già lo so, perché il caffè lì è caro. Vabbè, la prossima volta tiri dritto, Antula, a frutti e dinti. Tanto si vive una volta sola, non è quello il problema. Cappa, ma io dico, sei caro, dammi a mangiare, ti prego, ca. Ecco cosa dico io. Cioè, ma veramente, la gente può fare di là. Ma a voi, Gigione, i si minore di minore erano, cioè, boh. Non erano i soliti che prendiamo anche noi, ma veramente non capisco io. Forte break. E tu? Ehi, a capo, buonasera a chi è l'arginito, buonasera. Sì, ti sento bene qua. Come va? Tutto bene? Alla grande, 9:20, radio 5, senza nessun problema. Ottimo per la truppa, io sto andando col 294, in OIT 23 canali, sempre MB più 4, non più 5, MB più 4. Massimiliano è andato a farsi la barba, riprendi Antu. Cappa. Anche qua è già arrivando Santiago Otto, dai, già è abbastanza forte il segnale. Già va bene. Cioè non è fortissimo, ma è abbastanza, dai. Geneni avanza, e lo già dobbiamo andare, 80 watt va benissimo, giusto per farti sentire da loro, a me mi arrivi 9-10 liscio, quindi non ho problemi, quando attacchi sei oltre 9-20, va bene, non abbiamo difficoltà, KK, vai Anto. Ma io l'ho sentito anche staccato un bel di volte. No, non è, già lo sento lo stesso, non ho problemi. Prova, Santiago 5. Basta guardare a me, io ho 23 canali della NOIT, già lo conosci qual è, me l'ha dato tu, 294, il microfono è MB più 4, va bene, i watt sono circa 6-7, dai, non di più, io non l'ho toccato, ho visto col wattimetro da quei watt lì, nella 4 e mezzo, quasi 5 di portante muta e poi sul parlato arriva 6-7, perciò va bene. si è sceso giù. Ehi, ehi, no, d'accordo, sto usando poco qua, perché è molto in fondo e poi ho staccato il microfono, ho messo al Galaxy, capito, il più 3. E quindi per il momento è in stand by, ogni tanto l'accendo e va bene, dai, linea di massima già va bene. Cosa stavo dicendo? No, è bello anche quello che ho io, il Courier, il Caravelle 2, che si assomiglia praticamente al Concorde 2. Santiago 7 e io gli arrivo a Santiago 9, ma no, non sono balle perché ho registrato l'audio, l'ho fatto sentire a Massimiliano, arriva una schioppettata qua, Daniel, arriva molto bene, entra sempre a salutarmi, però purtroppo non può rimanere in radio perché sente solo a me, capito? Non sente neanche Antonello, a Cosio, a Roberto, non sente a nessuno da questa zona, sente solo a me, Santiago 9. 9, mi ascolta 7 normale e quando c'ho qualche watt in più mi ascolta 9, quindi penso che sia un ottimo segnale per quella zona, insomma, va bene. Avanti Anto, riprendi. Antonio è sceso giù, riprendi qua. Babbo, tutto bene, mamma? Ora sono qua. Sembra che è rientrato Antonio, a tu? Sì, a capo, sono qua. Vai, vai. Capo. Cosa vi possiamo fare? Sei solo tu che lo senti quello lì, forse perché noi siamo troppo bassi. Cioè, non c'è proprio il varco, non c'è per quella zona lì. Fortissimo, c'è un altro da Villa Cidro, mi arriva 3-4, mi arriva 3-4, ma lui mi arriva molto molto bene, infatti ogni volta mi sente entra a salutarmi e io faccio l'audio perché saluta tutti, però non sente nessuno, abbiamo fatto anche le prove con Roberto, no, non arriva nessuno dalla mia zona lì, purtroppo è così, cosa volete vi faccio? chiappa, magari ci abitassi a Carmurazzi, o nella zona alta di Sassari, può darsi che ce l'avrei fatta anch'io, non lo so, però qua è negativo proprio. Niente, ma se non ci arrivano i miei vicini di casa, Roberto è un altro, Antonello è un altro, lasciamo le antenne buone lo stesso, ma non ci arrivano. Io proprio un varco, capito, perché loro hanno scala di ciocca che non passano, io invece la supero scala di ciocca, quindi c'ho tutto il varco libero per quella zona lì, per quella te lo sto dicendo. Vabbè, comunque, a futindini, l'importante ci sentiamo, dai, non sarà un problema, no? Vai qua. Guarda che io abito dall'87 qua e ce n'è stata di gente, io avevo un vicino qua attaccato che è due piani più alto di me, però non faceva quello che facevo io, non lo so, forse secondo me è proprio il varco che ho, non lo so, però ti ripeto, no, non mi posso lamentare. Va bene così, tanto se tutto va bene quest'anno io getto la spugna da qua, capito? Già lo sai, quindi io perlomeno nella zona dove devo andare a abitare è abbastanza alto, perché è la zona di Monte Oro, quindi non dovrei avere problemi lo stesso, però certo è che qua mi mancherà sicuramente. Riprendi Antu. No, vabbè, è zona buona, quella sicuramente io ti arriverò una fucilata lì. Nella zona alta di Monte Oro? Eh sì, è una cinquantina di metri dal ripetitore verso appena appena in discesa, ma si vede sempre tutto Sassari, tutto Osero, tutta la parte alta, si vede tutto a tu. Lì sicuramente. Ma troppo vicino, vedrai che c'ha a fare. Cosa? Il ripetitore è troppo vicino. No, già ho fatto le prove, no, non disturba assolutamente. Ti dico solo che l'antenna lì della TV è senza cavo, cioè manca antenna, beh. Era un grido, ya, che non vedo di nulla. Purtroppo altro segnale. Va bene, no, un'ottima zona, ho già fatto le prove anche col portatilino, poi una volta mi ha messo la radio lì, due estati fa, ho messo un'antenna piccolina, tipo boomer, una cosa del genere, con un paletto appoggiato a 2-3 metri, arrivavo a 9:30 da tutte le parti a Sassari. Ma non ricordo, ho fatto una prova. Sai, tu se pone antenna vanna, c'è mia zia che abita lì, abita proprio a Monte Oro, c'è l'antenna di Mediaset proprio di fronte, allora per vedere i canali ho dovuto girare l'antenna, sennò aveva tutto sfocato. E così la nostra è girata al contrario, la prende di riflesso. Capito? È così Anto. Si chiama quella dove appunto c'ha i cani mio genero, lì, si chiama località Balcone, proprio perché è praticamente affacciata verso Sassari come un balcone, vedi tutto, proprio Osero, tutto. Si vede il mare, proprio la parte del mare, si vede tutta la zona di Senno, di Sorso, tutto, bella alta. Però tanto già lo sai, bisogna aspettare che ci liberiamo di questa, vai Claudio. finito, vedi? Sì, avanzi via. Se ce la faccio quest'anno, credo io. Se ce la faccio a ultimare il mio progetto, la casa in vendita, tutti si affacciano, adesso vediamo. Comunque. Se ce la facciamo va bene, se no pazienza, già siamo qua. Avanti Massimo, gli ha fatta della vaiba? Sì, sì, barbetta, boccetta pure, fescita, veloce. Adesso sono tutto accrucipito, va bene. Oh, ma grattata direi, o impasturata? Grattata, lo girare con calma, bisogna trattarla, capito? Ciao, chiodo! La metta è un'Artemi! E positivo, là. Anche tu la radio 5 perfetta, Santiago 7. Sì, alla grande, va bene. Cos'è Antonio adesso? Che usare la lametta di da uomo, cioè tutti gli uomini lo sanno, è un'Artemi. Gli femmini disumpieggiano quando si fanno i peli perché sono pasticcione. Ma in genere la donna deve fare la chioretta, non con la lametta, ma cos'è, un uomo è. Ci sono donne che se ne fanno con la lametta, con quelle adatte. Da voi che mi crescono bene, mi vuoi un cerculiatore, mi vuoi tagliarmi. No, ci sono le lamette adatte per le donne, che sono diverse da noi. Però io quando mi faccio la barba uso quel Wilson, lo conosci, quello che ha le lame al titanio, quello non mi sciumpiegge nulla, ne ha 5 in fila, ne ha e funziona benissimo. Tratto lo Jack e Pill. Ah, è vero. Però vedi, tu, se tu usi il Jack e Pill come te vende Claudio, però te lo devi fare tutti i giorni, se no ti sciumpiegge. Ti sa rottura già un bello. Ah, va, lo sa Jack e Pill. Ah, ma tu la conosci a Jack e Pill? Mica è lo video di Jack e Pill, me. Ma tu? Ehi, io sono nella Ruzzi. Però sai che sono Jack e Pill, là? Jack e Pill, è lo video di Jack e Pill. Claudia, se entra a via, no, te ti pisciavi sotto. Mi sono scese da sopra e da sotto anche, per carità, vai Massimi. C'è un'altra, la foto di Pacciani, poi uno che ha avuto un incidente frontale, l'ha fasciato tutto in testa. Allora, e Antonio li ha visti, vero Antonio? Mamma mia, cara. Che ore sono? Le 8:30. Ehi, fra un po' andiamo a pappare. Un po' di avanzi di pranzo, vai. Già va bene. Capo, mamma mia. Dima che Gia Maria e Gia Maria sono tutte e due, mamma mia. No, ma Luca è un picciuga, per carità. Quando entra in gioco non c'è niente da fare. Massimilia. Di nuovo giù deve essere sceso, riprendi tu che la vai. Strano però, non so, anche io ad esempio a Giovanni non lo sento proprio per niente. Lima 1 già arriva, ma a Giovanni non lo sento, capito? Non so manco come si chiama Lima 1 di nome. C'è stato solo un chiarimento, ma è una cosa che ha voluto fare lui personalmente, giustamente è stata anche apprezzata. Va bene così. Avanti, Antu. Capa, già, non è nulla di particolare. Non c'è problema. È un casino arrivare in certe zone, devi avere proprio il palazzo, c'è la posizione giusta, se no non ce la fai. Sì, ma ti stavo dicendo qua che anche Coso, come si chiama, anche Roberto, ha una bellissima posizione, però non è alto come sei alto tu, non ha le stesse altezze, la stessa quota, capito? No, non ce n'è alto come questo, c'è solo quello di fronte a me che c'ha due piani in più, ma non ce n'è antenne lì, poi a me non mi ostacola, capito? Non mi fa assolutamente niente. E non è venuto Luca, già l'ha visto. È un bel alto, poi un bel aperto, una buona posizione. Se tu immaginati che io dal 87, quando l'ho consegnato, sino al 2000, mi pare, sino al 2000 ero al nono piano e ci avevo 10 metri di cavo. Andava ancora meglio. Oddio, non è che andasse così, andava bene. Andava, però usavo il 213, capito? Adesso che ne ho 40 metri, cavolo, uso la K1000. È uguale, non cambia niente. Certo, devi usare cavi buoni, altrimenti c'è troppa perdita, capito? Non ce n'è segnale in antenna, vatti in antenna non ce n'è. Se invece hai un cavo buono riesci ad avere, non dico il massimo, ma almeno il 95%, 90%, tutto qua. Quindi io ci abito dall'87, eravamo in 5 qua a carbonati, uno vicino all'altro. E poi sono spariti tutti perché io ero abbastanza monello e allora se ne sono tutti andati. Avanti qua. Claudio. Ma guarda, vabbè, proprio Antonello, tu per mettere qualsiasi tipo di antenna sei sempre più basso.